fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, siamo tornati in onda, siete sempre in collegamento con Ristoradio Convento, ovviamente la web radio del ristorante Convento di Lonato del Garda, chiaramente. Andiamo a continuare a conoscere gli ospiti festeggiati di questa lunga notte, di questa lunga serata. Una ragazza contentissima di essere qui, a quanto sembra dalla sua reazione non vedeva l'ora. Sarà anche difficile farla uscire alla fine dell'intervista, perché probabilmente vorrà mettere radici qui, ma troveremo il modo di concluderla nel modo più consono e migliore. Allora, diamo il benvenuto come si deve, perché vedo che ha un cappellino abbastanza regale, direi, importante, con cui potrebbe tranquillamente vedere partecipare a una corsa di cavalli, perché si sa che alle corse di cavalli si portano i cappelli più strani in senso buono, chiaramente, più fantasiosi e originali. Allora, come ti chiami intanto? Ilaria, che è un nome originalissimo, quindi già mantiene l'originalità già a partire dal nome. Da dove vieni? Vengo da Roncola. Guarda, vai più vicino così ti sentiamo bene. Vengo da Roncola. Ok, senti anche la voce delicata. È una voce delicata, vedi, suadente, soffice. E dove l'hai persa? Hai cantato? Oh, l'ho persa un po' sopra, un po' qua sotto. Quindi diciamo che se usi le frequenze medie, quelle dovrebbero uscire, no? Hai perso le alte, le basse? Non ho perso le frequenze. Non hai perso le frequenze, quelle sono ancora sintonizzate al punto giusto. Allora, dicevi che vieni da Roncola, giusto? Che sta dove? Ok, no, ci piace sempre fare questo piccolo momento geografia, perché potendoci ascoltare da ogni parte d'Italia è anche bello, insomma, parlare non adesso, anche nel futuro, potenzialmente, magari no, magari sì, perché sapete che non vuole che la sua voce vada troppo in giro, e quindi dobbiamo dirglielo pochino per volta, ecco, fargliela prendere la pillola un pochino per volta, mentre nel frattempo continua a dimostrare la sua gioia per questo momento insieme a noi. Allora, Ilaria, cosa ti porta qui al convento, al di là di questa giornata di sole, per cui è chiaramente adatto il tuo cappellino? Sole mica tanto, però comunque mi portano le mie amiche, che mi sposo! Bene, si sposa, chi è il fortunato? La fortunata sono Ilaria e... Ah, sei tu la fortunata? Come mai? Come mai? Sei no, più fortunata tu? No, la fortunata. È più fortunato lui, dici? Sì, è fortunato lui e Jonathan. Jonathan, vedi, già questo è già un nome importante, no? È un nome che si fa ricordare. Allora, quando vi sposerete? 28 giugno, dove? A Roncola anche lì? Ah, ok, no, pensavo che una trasferta, qualcosa. No, ok, allora spiegami, perché io fuori ho sentito un po' una voce, parlavano di una sposa regale, una sposa importante. Spiegaci come mai, il motivo di questa definizione, anche il tuo cappellino, diciamo che lo giustifica. Intanto descrivicelo, perché chiaramente il radio non si vede, quindi mi piacerebbe che tu lo descrivessi al nostro pubblico. Io ammazzerei le mie amiche innanzitutto. Vabbè, ma quello ne parliamo fuori, anche perché se fate del sangue qui mi tocca pulire, quindi magari fatelo fuori. Il sangue blu. Vabbè, però si pulisce lo stesso anche il sangue blu, macchia uguale. Il mio cappellino com'è? Devo essere aiutata dalle mie amiche, perché io non mi vedo com'è il cappellino, com'è? È regale. Perché Jonathan sembra quello di Hillary Clinton. È vero. Diciamo che ne ha una buona collezione Hillary Clinton, probabilmente. Io solo questo purtroppo, però dopo stasera cercherò di... Esatto, vedi, può essere l'inizio di una lunga collezione. Esatto, è vero. Belli. No, però è carino. Però mi piace la sincerità, non è che tutti i vestiti belli ci stanno bene addosso, giusto? Però riconosci la bellezza. L'ha accettato, vedi. Oh. Sono accettata. Cerchiamo di capire anche il perché, però, di questa scelta. Chiediamo alle amiche, magari. Chiediamo alle amiche, ragazzi. Come rivestita prima, Ilaria? Chiedono come rivestita peggio, prima. Peggio. Con la tuta del mio futuro marito da meccanico. La sua da meccanico, ok. Che è una taglia tipo XL, doppia XL. Ma sì, è abbastanza grandina, ma non troppo. No, non troppo. Mi sono accorta. Beh. Anche abbastanza abbastanza bene. Ah sì? Sì. E no, perché va da sé che di solito la tuta da meccanico deve essere comoda, quindi non per forza attillata o se insomma qualcosa stiloso. Che non va, o io sono troppo grossa o è lui che è troppo magro. Beh, diciamo che in entrambi i casi forse dovevate accorgervene prima. Sì, ma c'è tempo. Ah, c'è tempo per recuperare, bene, bene. No, avevo paura che ancora non conosceste le vostre fattezze fisiche, che hai scoperto solo ora che è troppo magro, no? No, è la prima volta che vi conoscete. Non so che prima volta stessi dicendo. Non lo so. Però comunque sono 10 anni che lo conosco. Ah beh, quindi diciamo che da un po'. Sta con me è ingrassato. Dici? Perché fai da mangiare bene? Abbastanza, dai. Suocera. Sì, abbastanza. Suocera. Ah, la suocera, perché è da sempre una mano, va sempre. Insomma, sempre un piacere. E dai, qual è il tuo pezzo forte, il tuo piatto forte, se ce l'hai? Alla pasta. La pasta? Qualsiasi tipo di pasta. Vabbè, una, scegliene una allora che ti rappresenta. Aiuto. Aiuto, qui non ti possono aiutare loro però, Pasta in bianco. Beh, pasta in bianco è forte, Pasta in bianco è un cavallo di battaglia. Io ci ho visto chef vincere la stella Michelin con la pasta in bianco, Esatto. Diciamo. Diciamo. Ci sta, per dare tono e colore anche alla tua cena e alla tua casa, ci sta. Beh, non è detto, magari gli piace questa tua nuova miss, questo tuo nuovo stile. A proposito di amiche, ci vuoi dire chi ti accompagna questa sera? Ce le vuoi un po' presentare? Allora, qui insieme a me ci sono Alice, che è la mia testimone. Ok. Insieme a mia sorella Elisa, che non è proprio qua, è di fuori. Ok. Poi c'è Sabrina, la mia amica nonché ex compagna di classe, Nadia. Anche. Pensavo ex amica, cioè amica ma ora ex amica, no, lo rimane. Nadia, anche lei mia amica ex compagna, Giada mia amica, Roberta amica da una vita, siamo iscritte, e Jessie amica da sempre, anche lei compagna da classe. Anche lei compagna di classe, bene, bene, bene, interessante. E beh, dai, saluto anche giustamente quelle fuori. Ciao a tutti! Cioè, no, non indirettamente, magari ricorda anche i loro nomi, visto che... Allora, c'è Caterina. C'è? Poi c'è Elisa, che ho detto prima, mia sorella. Francesca. Franci. L'altra Francesca. E Lale. E l'Anna. Brava, lei contate tutte, bene, bene, bene. Allora, vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa? Johnny, una sera che non c'è, vabbè, dai, ciao, ti manca già. Sì. Diciamo che come dire, il linguaggio non verbale era un po' in contraddizione col linguaggio verbale, ma va bene così, se ne farà una ragione anche Johnny, no? Per una sera. Comunque, grazie a tutte. Oh, bello. Allora, grazie a te Ilaria, grazie a loro per averla portata qui e per aver condiviso con noi questa serata e questa festa. In bocca al lupo per il tuo matrimonio e in bocca al lupo per tutto quello che sarà poi. Grazie. Suonare? Cosa suoni? Il flauto? Sì, un flauto un po' strano. Ah, un flauto un po' strano, ah ok. Prova. Bello, bello, sembrava un po' in arrivo il treno per un pochino. Ricordare il treno per Roncola, famosissima stazione di Roncola. C'è. Ok, grazie mille ragazze. Alla prossima e di nuovo buona serata. Ciao!